sì, siamo contentissimi, il nostro umore è cambiato nel giro di 24 ore ed era inevitabile una reazione del genere. Adesso non possiamo far altro che aspettare, sperare che Patrick possa rientrare a Bologna il prima possibile per accoglierlo come abbiamo sperato di fare negli ultimi 3 anni. Come sono stati questi 3 anni? Sono stati 3 anni molto difficili, è bello pensare che la maggior parte del nostro gruppo, dei nostri attivisti, abbiano abbracciato la causa di Patrick e siano appunto rimasti uniti fino ad oggi per lottare e per raggiungere questo momento insieme. Sono stati anni di speranza, anche di difficoltà emotiva, perché sembrava tutto perso, ecco, quando ci è stato comunicato che lo avrebbero arrestato nuovamente. Adesso non ci resta che sperare e continuare a lottare, perché noi continueremo ad essere al fianco di Patrick finché non sarà tra di noi. Sono stati anche, come dire, anni di logoramento, perché quella che è sembrata la strategia giudiziaria delle autorità egiziane, cioè di rinviare di udienza in udienza appunto la decisione sulle sorti di Patrick, sono stati snervanti. Sì, noi eravamo in piazza prima ogni 15 giorni, poi ogni 5, poi ogni 3 mesi, ogni qualvolta appunto l'udienza veniva rinviata, noi eravamo in piazza per chiedere che venisse liberato il prima possibile, che gli fosse concesso almeno il diritto a viaggiare e a continuare i suoi studi. Eravamo addirittura al suo fianco nel giorno della laurea, che si è tenuta appunto a distanza, come ben sappiamo, raggiunta con il massimo dei voti. Dietro quella felicità si celava sempre un sentimento di logoramento interiore e di difficoltà, ecco, non possiamo neanche immaginare quello che Patrick sentisse in quel momento. Quindi sono stati sicuramente anni difficili, sia quando era in carcere per i primi 22 mesi e sia dopo, quando è stato liberato, ma solo in modo fittizio. Come valuti, al di là di attiviste e attivisti, la risposta delle istituzioni della nostra città, l'università e il comune? Noi siamo una città estremamente fortunata, il comune, anche grazie alla figura sia del sindaco, della vice sindaca e della professoressa, che è anche consigliera appunto comunale, siamo stati estremamente fortunati, sono sempre stati al nostro fianco, ci hanno sempre contattati nel momento in cui qualche notizia veniva a galla e hanno mostrato veramente grande vicinanza a Patrick. Non bisogna dimenticare anche il ruolo dell'università, il rettore è sempre stato al nostro fianco, era in piazza anche 2 giorni fa per esprimere vicinanza a Patrick e non è una cosa scontata, quindi esportiamo il modello di Bologna ovunque sia possibile, perché c'è bisogno di persone che sostengano i diritti umani e che non lasciano che questi casi finiscano poi nel dimenticatoio. In questi 3 anni però si sono avvicendati anche diversi governi italiani, chiedo un giudizio anche sulla condotta invece del nostro Stato. Noi diciamo non commentiamo quali possono essere appunto le mosse amministrative o legali che lo Stato possa attuare a partire da adesso. Sicuramente c'è stato chi ha mostrato più solidarietà e vicinanza al caso di Patrick, anche la spinta del Parlamento di concedergli la cittadinanza è stato sicuramente un messaggio chiaro, esplicito e positivo, che non sempre si è risolto nel migliore dei modi, quindi noi non possiamo fare altro che sperare che il governo adesso punti alla totale liberazione di Patrick e che possa appunto aiutare noi attivisti e anche Patrick stesso a risolvere questi cavilli. Sarebbe importante che come Stato ci dissociassimo dalle violazioni dei diritti umani in Egitto, che appunto vengano chiusi gli accordi e che si metta un fine a questa politica che gioca poi sulla pelle delle persone, degli attivisti, dei difensori dei diritti umani, degli avvocati, dei giornalisti che in Egitto vengono arrestati. Non dobbiamo dimenticare che sono 60.000 i prigionieri di coscienza ad oggi in Egitto. Ecco, l'Italia non può avallare questo sistema. Proprio su questo volevo farti un'ultima domanda: se si conclude la vicenda giudiziaria di Patrick, però ci sono tante altre persone, lo hai ricordato tu poco fa, che vivono una medesima situazione. sì, noi come Amnesty International lottiamo ogni giorno per liberare tutti questi prigionieri di coscienza, non solo in Egitto ma in altri luoghi del mondo. Bisogna mantenere alti i riflettori su ogni singolo caso. Sarebbe importante chiarire le modalità con cui queste persone vengono arrestate, come vengono trattate in carcere, come appunto viene loro vietato ogni diritto allo studio, al viaggio, insomma, gli vengano negati i diritti fondamentali, quelli che noi riteniamo diritti fondamentali, quindi sarebbe importante continuare a lottare per loro.